Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Mentre si svolgono le prove generali della futura mobilità elettrica automobilistica in un quadro che ha ormai identificato abbastanza chiaramente quali saranno i principali ingredienti tecnologici e infrastrutturali di base, molta più incertezza vi è invece sul trasporto pesante. Il passeggero di un'auto è poca cosa rispetto al peso del veicolo, ma per i camion è esattamente il contrario e le batterie per il momento non sembrano la risposta giusta per un mezzo particolarmente pesante. Una soluzione sarebbe quella di elettrificare le strade dotandole di una corsia elettrificata che permetta ai veicoli di ricaricarsi in movimento. Di quali siano le principali soluzioni al vaglio parliamo con il professor Paolo Guglielmi, professore associato di ingegneria elettrica del Politecnico di Torino, che da tempo studia questi sistemi. Buonasera Guglielmi. Buonasera. Allora, senta, sono fondamentalmente tre gli scenari, i possibili approcci tecnologici per dotare le autostrade di qualcosa di simile alle linee elettriche delle ferrovie. Quali sono e quali sono i pro e i contro delle varie soluzioni? Sì, decisamente tre, forse più due che tre. Diciamo che la soluzione più interessante e più immediata dal punto di vista pratico potrebbe essere quella della catenaria, nel senso una sorta di filobus, se volete, come immagine, dove il camion si alimenta a pantografo da una distribuzione aerea. Il vantaggio di questa soluzione è che esistono tutte le tecnologie per realizzarla, è sufficientemente ben sperimentata, infatti esistono un certo numero di siti sia in Germania che in Svezia e che in altre parti del mondo dove questa operazione è già stata sperimentata. Testata, certo. Sì. Dal contro invece decisamente l'impatto visivo è impegnativo. Molto, Perché è piuttosto invadente. Molto simile a quello di una linea ferroviaria, quindi tantissimi tralicci. No, decisamente peggio che una linea ferroviaria. Perché? Perché deve avere necessariamente i tralicci da un solo lato, quindi la sospensione è importante e poi anche gli aspetti di sicurezza sono complicati. Complicati. Una seconda opzione, sì, di nuovo, che è l'opposto, è il duale, come dire, non si vede nulla, è la soluzione wireless con una serie di spire distribuite nell'asfalto che ricaricano il veicolo. Sono delle bobine elettriche, come tante bobine elettriche messe una dopo l'altra, no? In fila, sì, sotto qualche centimetro sotto l'asfalto. Sotto pochi centimetri, sì, di asfalto, l'ordine di grandezza è 4-5 centimetri, quindi abbastanza in superficie rispetto alla struttura. Il pro è inevitabilmente il fatto che non si vede nulla dal punto di vista estetico. Dal punto di vista dell'utilizzatore c'è un vantaggio significativo confrontato con l'altra soluzione, cioè questa soluzione si adatta anche all'automobile se pensata in quella direzione, certo, lì. Nelle automobili l'idea di usare il pantografo è fuori discussione, fuori certo, logica, certo. E mentre una ricarica induttiva dinamica permetterebbe di avere la possibilità di ricaricare anche veicoli di qualsiasi natura che si muovono sull'autostrada, garantendo un'autonomia di lungo tratto o anche autonomie di emergenza. Oltretutto si aprono anche interessanti scenari di guida autonoma maggiormente garantita, certo, per esempio, perché seguire un flusso di potenza è una cosa completamente diversa da seguire un'indicazione di un radar. Quindi ci sono una notevole vantaggi. Ecco, sequenza di componenti positivi e di vantaggi. Ricordiamo, parliamo di ricarica wireless, quindi a distanza, vuol dire che non ci sono oggetti che si toccano, ma c'è una bobina che produce, diciamo, un campo magnetico, una seconda bobina che lo cattura e lo trasforma in energia elettrica. Ecco, diceva, gli svantaggi quali sono? Beh, lo svantaggio principale è che è veramente ancora pionieristica, nonostante ci siano soluzioni implementate nei diversi siti del mondo, dei centri di ricerca per i quali noi abbiamo fatto una sperimentazione qua a Susa, il problema è che non esistono standard. Il processo di standardizzazione è cominciato da poco e di solito occupa un tempo che varia tra i 3 e i 5 anni, sì, e quindi è il momento di testare, sicuramente. Terza opzione, dicevamo però che sta cadendo in disgrazia, è quella del binario, no? Il binario inserito nell'asfalto. È una soluzione anche questa sicuramente interessante dal punto di vista tecnologico e soprattutto sull'impatto visivo è completamente diversa, però è piuttosto complicata dal punto di vista dell'implementazione sui lunghi tratti. Mentre in un ambiente urbano è più facilmente controllabile, identificabile, è decisamente più complicata in un ambiente extraurbano, soprattutto al momento dell'aggancio, dello sgancio. Sì, perché bisogna proprio di sicurezza agganciarsi fisicamente, poi ci sono varie, diciamo, geometrie, ma bisogna agganciarsi fisicamente a questo binario, se poi bisogna anche metterci di mezzo delle velocità elevate come quelle autostradali, diventa problematico. A proposito di problemi, parliamo di un'altra sfida che riguarda il tema dell'elettrificazione delle autostrade, qualunque sia poi la tecnologia che scegliamo per trasferire agli automezzi energia elettrica, perché qui parliamo tanto di quantitativi di energia e di potenze in gioco strabilianti. L'ordine di grandezza minimo è il megawatt al chilometro, ma due studi un po' più sensati sul trasporto pesante parlano di una decina, quindicina di megawatt al chilometro per attrezzare ragionevolmente un'autostrada. Questa è la potenza installata, l'energia è sempre funzione del numero di veicoli che ci passa sopra. Esiste anche la possibilità di limitarla, ovviamente, però dipendentemente da quello, se parliamo di un centinaio di chilometri di strada, parliamo di dal centinaio di megawatt al gigawatt di potenza installata. Tipica taglia di una grande centrale termoelettrica o di un impianto nucleare, per capirsi, quindi stiamo parlando di roba grossa. Va bene, allora, grazie Paolo Guglielmi. Grazie a voi e a presto. E allora, cari ascoltatori, a presto anche da parte mia. Ci sentiamo domani.